Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Secondo Genrik Altschuler, russo inventore del metodo TRIZ, un metodo per la risoluzione di problemi tecnologici molto raffinato, la maggior parte dei problemi contiene una sorta di contraddizione intrinseca. Per esempio, prendiamo la raccolta dei rifiuti. Più differenziate, più diventa costoso e oneroso anche in termini di mezzi ed energia il sistema di raccolta. D'altronde, meno differenziate e più materiali ed energia sprecate mandandoli in discarica oppure all'inceneritore. Quasi sempre l'approccio a questo tipo di problemi quindi consiste nel trovare una mediazione, una sorta di giusta via di mezzo. Ecco, secondo Altschuler, le grandi innovazioni rompono questo schema delle istanze contrapposte, superando questa sorta di contraddizione. Se volete, si potrebbe anche parlare di pensiero laterale. Ecco, partiamo da uno di questi casi. Stasera, per parlarvi un po' più in generale, tra oggi e domani ci dedicheremo almeno due puntate di esempi forse anche un po' estremi, ma concreti, di scelte urbanistiche che hanno in comune la creatività e questo spirito di rottura. E partiamo proprio dal ciclo dei rifiuti, ma introduco subito l'ospite che ci farà da guida in questa carrellata, Alessandro Marata, docente all'Università di Architettura di Bologna e consigliere del Consiglio Nazionale degli Architetti. Buonasera Marata. Buonasera a lei, Melis. Allora Marata, noi abbiamo già accennato fuggevolmente qualche settimana fa a un sistema di raccolta molto particolare che è in uso in Svezia. Cominciamo da qui. Certo, è un sistema, diciamo così, innovativo, replicabile e non sempre però molto interessante, che è una raccolta pneumatica con tubi sotterranei, una raccolta dei rifiuti urbani, sia organici che rifiuti secchi. In un caso i rifiuti secchi vengono inviati a un centro di smaltimento per il riciclo dei materiali, nel caso dei rifiuti organici invece viene prodotto biogas che ritorna poi nel quartiere per avere utilizzi, per esempio, nell'uso dell'automobile. E ognuno a casa sua cos'ha? Una specie di tubo, di sportello? Come funziona? Non è in casa, ma vicino agli edifici ci sono dei bocchettoni, una cosa simile a degli idranti, sui marciapiedi. Quindi uno sceglie, apre il bocchettone e mette il suo rifiuto. E quindi una parte, quella diciamo umida, va per la produzione di biogas. Esatto. E invece per quanto riguarda la parte di raccolta differenziata, lì i cittadini mettono tutto insieme e poi è a valle che si separano i vari tipi di rifiuti riciclabili. Certo, in questa tubazione pneumatica ad aspirazione viene convogliato il materiale in un centro di smaltimento e in quel luogo vengono suddivisi i materiali per essere avviati poi ai sistemi di riciclo per ogni singolo materiale, alluminio, vetro, carta, rifiuti secchi in generale. Ecco, insomma, questa soluzione, che sembra anche un po' strampalata, però in realtà ha veramente dei notevoli vantaggi, no? Il fatto di non avere in giro, per esempio, tutti i mezzi per la raccolta differenziata. Certo, in primo luogo non avere i brutti cassonetti per la raccolta che in ambito urbano ovviamente disturbano la qualità dello spazio e ovviamente non avere i camion piccoli o grandi che siano, che girano facendo rumore ed inquinamento. Ecco, rimaniamo in tema di rifiuti perché so che lei ha anche un altro caso da portarci e questa volta però andiamo, insomma, lasciamo i paesi freddi del nord Europa e ci spostiamo in una zona un po' più climaticamente attraente. Certo, beh, il caso di Barcellona è emblematico per gli architetti da molteplici punti di vista. Il caso del Forum poi è forse un caso unico al mondo che dimostra come col talento, la tecnologia si possono fare cose impensate. Ad esempio nel Forum sono state unite attività apparentemente inconciliabili, certamente. In primo luogo un termovalorizzatore, sì. E un secondo elemento un depuratore per le acque. Allora, questi due, diciamo così, mostri della tecnologia negativi in realtà sono stati integrati benissimo mettendo il termovalorizzatore all'interno di un parco. Sopra il depuratore è stata fatta una piazza urbana nel quale affaccia un magnifico museo per l'arte moderna, sì. E per le performance, un bellissimo albergo, altri edifici di servizio. A lato poi di questa piazza che copre l'inceneritore è stata realizzata una cosiddetta pergola fotovoltaica che ha la caratteristica di essere gigantesca. Immaginiamo un campo da calcio, sì. Coperta con una pensilina al di sopra del quale c'è un ettaro di fotovoltaico. che oltre a produrre energia elettrica ovviamente crea ombra sotto e rende praticabile la piazza, che ad agosto a Barcellona possiamo immaginare la temperatura, no? Nella quale si fanno delle attività, si può immaginare bellissimi concerti, i giovani si ritrovano. A fianco di questa pensilina, inoltre, mancando la spiaggia, non hanno avuto problemi a prendere dei camion di sabbia e fare una spiaggia dove prima non c'era. E qua mettiamo insieme addirittura il momento del relax, il momento in cui si piglia il sole con l'inceneritore. Ecco, questa roba a noi sembra inconcepibile, ovviamente per il semplice fatto che si accostino una spiaggia e un inceneritore, diciamo, ma in realtà c'è qualcosa di più anche pregnante dietro un progetto di questo tipo. E qui probabilmente la parola d'ordine è densità, un termine che torna. Certo, la densificazione e la città densa, che è sempre stata considerata come negativa, in realtà si è visto, anche numeri alla mano, che dal punto di vista della sostenibilità spesso ha effetti positivi, per non parlare poi dell'effetto culturale dell'integrazione. La vera città è quella densa dove avvengono tante cose vicine. Ecco, sempre a Barcellona questa, diciamo, questo concetto è stato declinato con il termine di agopuntura urbana, intendendo con questo una serie mirati, più di 100-150 interventi tra piccoli, medi e grandi, che hanno, diciamo così, coinvolto piazze e vuoti urbani, rotonde stradali, in modo da creare in spazi relativamente vicini tra di loro una rete di spazi di qualità. Tanti piccoli interventi, tanti piccoli aghi di qualità infilati nella città di Barcellona. C'è il tempo solo di un'ultima velocissima domanda: dove ci porta domani? Beh, partendo da Amsterdam verso Amburgo e Vienna, direi. Beh, insomma, avete anche capito di che cosa parleremo domani. Non mi resta che salutarvi. Buona serata a tutti.